관광 어휘 ascoltare dire frequentare importare interessare mancare piacere salutare servire viaggiare animale attimo carne cucina estate estero figlia inglese inizio ministro moda pesce pizza presidente riforma strada televisione università viaggio zio unico universitario boh di più inoltre 문형 Ti piace la cucina italiana? Sì, mi piace molto. A tuo padre piace viaggiare? Sì, gli piace viaggiare. Saluti il professore quando lo vedi per la strada? Sì, lo saluto. Frequenti il secondo anno? Sì, frequento il secondo anno dell'università Hankook. Ascoltiamo il signor Galli? Sì, ascoltiamolo. 대화 Signor Han, a sua moglie piace viaggiare? Sì, le piace. Va ogni estate in Italia. A lei piace l'Italia? Sì, molto. Inoltre, la nostra unica figlia è in Italia. Sta in Italia per lavoro? No, è in Italia per studiare la moda. Frequenta la Domus da 2 anni. Allora capisce bene l'italiano. Adesso sì, ma all'inizio non capiva niente. Ma chi è quello là alla televisione? È il famoso ministro dell'educazione. Cosa dice? Boh, ascoltiamolo un attimo. Sì, parla della riforma universitaria. Chi è quel signore? Lo conosci? È il mio professore d'inglese. Salutiamolo.